Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Ieri con la staffetta Mihajlovic Rossi le panchine saltate erano 6, oggi con quella passata da Ficcadenti e Ballardini sono diventate 7, quindi da un primato uguagliato rispetto alla stagione 2009-2010, dopo 10 giornate si è passati un record assoluto grazie a Cellino, che su 7 cambi tra l'altro ne ha firmati 2, Donadoni prima di cominciare il campionato e adesso Ficcadenti, che era pur sempre nono in classifica. Evidentemente per il presidente del Cagliari l'obiettivo sarà la Champions League o probabilmente come minimo l'Europa League, perché tutto ciò abbia un senso. Alcune notizie di giornata, intanto la firma per l'appunto di Ballardini, che sarà presentata nel pomeriggio, i provini di Coverciano per la squadra che giocherà la prima delle due amichevoli venerdì sera in Polonia. Pazzini-Balotelli, la coppia d'attacco scelta per stamattina da Prandelli, con Pepe come area di raccordo. Insomma, altre cose minori, ma mi sembra che il clou di giornata, il clou dalle 20 di ieri sera sia la sentenza del processo di Napoli, la sentenza di primo grado del processo di Napoli. A Napoli troviamo Marco Bellinazzo. Marco, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, tutto si può dire, ma non che questa sentenza di primo grado, ripeto, abbia fatto poco rumore. A memoria, io credo sia la prima volta che una sentenza ordinaria si rivela più dura, più severa di quella del Tribunale Sportivo. Sai Gigi, era un po' nell'aria che si arrivasse a una decisione così importante. Le difese di Moggi e degli altri imputati in questi 3 anni di processo hanno tentato in tutti i modi di ridurre le responsabilità di coloro che erano indagati, cercando di coinvolgere altre persone, no? Il così facevano tutti. Evidentemente però nelle aule di giustizia quello che contano sono le responsabilità individuali, e le responsabilità individuali, siamo ancora ovviamente a livello di primo grado, sono state però accertate evidentemente dai giudici che hanno accolto l'impianto accusatorio in pratica quasi senza correggere nulla. Sì, ed è anche una sentenza che, a parere mio, scrive bene Sconcerti sul Corriere della Sera. Il suo titolo è sentenza che chiude qualsiasi revisione di tipo sportivo. Ne leggo un passo. Non è stato solo condannato il direttore generale di una squadra, è stato condannato il suo metodo di gestire il lavoro, quindi un'intera gestione della società. Moggi è stato per 10 anni alla Juventus, era un tribunale della Repubblica. Ci dice che aveva organizzato un'associazione a delinquere per indirizzare i risultati. Non è più una partita singola o una telefonata complice. È un'organizzazione che lavorava sotto la direzione di Moggi per alterare continuamente i risultati. Sono stati condannati in modo pesante anche i 2 designatori arbitrali, l'altra faccia della medaglia, eccetera, eccetera. Nessuna grande autorità, prosegue poi, per dare lezioni morali a nessuno, ma niente è stato mai così grave come questa sentenza. Il massimo dirigente della squadra più grande cercava di truccare le carte e nel frattempo vinceva. Cosa deve pensare un tifoso, l'imprenditore in un'altra squadra, un semplice studioso di calcio? Quante partite vere e quante false abbiamo visto? Confesso che non pensavo sarebbe andata così, ho sempre creduto a una certa vivacità di Moggi, ma non arrivavo a concepire l'associazione a delinquere. Evidentemente sbagliavo. Se a parer mio perlomeno è stato, ma non solo a parer mio, a parer generale, è stato scioccante, ripeto, questa conferma, no, della giustizia sportiva, che è sempre stata assai più dura in materia, come è normale che sia, da parte della giustizia ordinaria. Un'altra grossa sensazione l'hanno suscitata le altre condanne, perché non c'è solo Moggi tra i condannati, non ci sono solo i designatori, ma ci sono fiori di dirigenti tuttora sulla cresta dell'onda. Tra l'altro la condanna è arrivata per frode sportiva, e parliamo delle condanne subite dal presidente della Lazio Lotito, dalla dirigenza della Fiorentina, dai Della Valle, dall'attuale amministratore delegato. Ne esce evidentemente macchiato non solo quello che era e che è stato il calcio italiano nella prima metà degli anni 2000, ma evidentemente anche una parte importante dell'attuale dirigenza del calcio italiano, con ruoli di primo piano nell'ambito della federazione, ma anche con ruoli importanti all'interno della Lega, dove per esempio lo Tito ha sicuramente una funzione di primo piano oggi, certo, sia nel determinare le alleanze tra le piccole squadre nella lotta per i diritti TV, sia nella riscrittura della legge 91 dell'81, che dovrà un po' rivedere gli equilibri tra calciatori e società. Ci si dovrà chiedere a questo punto come il calcio italiano esce da questa sentenza. Insomma, ripeto, non riguarda soltanto il passato, ma anche il presente e il futuro del calcio italiano S.p.A. Certamente no, anche se stiamo parlando di una situazione conclusa, cioè finita 5 anni fa. Questo è un processo, ripeto, che riconferma, non dico che fotocopia, ma quasi la sentenza dei giudici sportivi di allora, e che indubbiamente, questo non c'è dubbio. Poi l'appello magari capovolgerà tutto in Italia, non sarebbe la prima volta che accade, non solo in Italia, ma per il momento conferma la bontà del lavoro dei giudici sportivi di allora, che invece erano stati in buona parte o per una certa parte messi alla gogna addirittura per le decisioni che avevano preso. Torniamo in collegamento con Marco Bellinazzo. La domanda che segue è riguardo all'aspetto che più mi ha incuriosito, e che le sentenze non si commentano, però ho trovato vagamente eccessivo, cioè il DASPO per tutti i condannati. Ma allora, il DASPO per Lotito, faccio per dire, che è tuttora, perché mi pare che i Della Valle non abbiano più cariche ufficiali nella Fiorentina, ma il DASPO per Lotito, che è presidente della Lazio e temo anche consigliere federale, come si può tradurre in concreto, Marco? Beh, sai, Gigi, di fatto le regole dell'ordinamento sportivo, le cosiddette NOIF, prevedono per i dirigenti appunto condannati per frode sportiva una sospensione immediata. Insomma, non c'è bisogno che si arrivi alla sentenza definitiva in Cassazione sul piano penale e giudiziario. Il DASPO è un provvedimento che fa un po' ridere, data la gravità dei fatti su cui si è pronunciato il Tribunale di Napoli. Significa che queste persone sono sgradite, che non potranno neanche avvicinarsi agli impianti sportivi, come i teppisti che rovesciano le macchine o si picchiano in curva. Insomma, forse un po' esagerato addirittura prevedere un DASPO comunque incoerente con sentenze penali che sono assolutamente pesanti. Tra l'altro succede anche l'interdizione dai pubblici uffici, insomma dalle cariche dirigenziali. Queste sentenze accessorie, ovviamente, dal punto di vista penale, hanno bisogno invece della sentenza definitiva. Ma ripeto, insomma, il quadro accusatorio, leggeremo poi le motivazioni tra 90 giorni, sarà molto interessante capirlo, anche alla luce di quello che dicevamo prima, perché si è arrivati a questa sentenza così pesante. Creano un quadro abbastanza fosco, insomma. Certo. Marco, io sentirei l'opinione di un esperto di diritto sportivo come l'avvocato Grassani, perché è intervenuto a ripetizione stamane in molti programmi, in molte trasmissioni. Sentiamo che cosa dice a proposito di uno di questi passi di cui ci stiamo occupando. Il principio della presunzione di non colpevolezza, per cui fino a che la sentenza non passerà in giudicato, nessuna delle pronunce ieri decretate dal Tribunale Penale sarà immediatamente esecutiva. Dopodiché, in base all'entità delle condanne che dovessero essere confermate all'esito di tutti i gradi di giudizio che in avanti verranno celebrati, a quel punto, in base all'entità e quindi ai vari benefici di legge, si potrà valutare, ma solo al passaggio in giudicato della sentenza, quali soggetti saranno meritevoli della detenzione in carcere, quali eventualmente degli arresti domiciliari, quali di affidamento in prova del servizio sociale. Ma ritengo che, vista l'entità delle pene, sarà molto difficile comunque che anche all'esito della definitività della sentenza ci possano essere soggetti che verranno privati della libertà personale. Beh, insomma, almeno questo direi che effettivamente non, insomma, si potrebbe risparmiare, no? Sì, dopodiché sul piano sportivo, sai, può funzionare quel vecchio adagio per cui se uno è un ladro non lo invito a casa, comunque vengono a scortare, certo, le posate e l'argenteria anche prima che arrivi la sentenza della Cassazione. Insomma, ovviamente la presunzione di innocenza è quello che va rispettato sopra ogni altro tipo di valutazione, quindi tutto può accadere. Quello che è grave, ripeto, è che un quadro accusatorio abbia avuto non solo conferma in sede di giustizia sportiva, ma quella è una sentenza più, come dire, tipo sommario, per cui lasciava spazio a repliche. Il fatto che il Tribunale abbia accolto in toto le richieste della Procura fa credere, considerando la prudenza con cui solitamente i giudici italiani accolgono appunto l'impianto accusatorio dei PM, che ci sia, insomma, motivo per superare quel ragionevole dubbio che invece, insomma, può indurre i giudici a non condannare. Certo. Ci sono un paio di ascoltatori che vogliono intervenire in materia. Io ti chiederei, Marco, di continuare a farci compagnia, perché se andiamo sul tecnico ho certamente bisogno d'aiuto. Moreno, provincia di Milano, buongiorno. Sì, dottor Garanzini, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo praticamente parlare un secondo del processo sportivo, perché secondo me stiamo dimenticando il fatto che Palazzi aveva scritto qualcosa come 37 fogli dicendo che quel processo praticamente era mancante di una serie di situazioni. E inevitabilmente, se quel processo sarebbe andato come doveva andare, anche ieri tra i condannati, secondo me, Moratti ci stava tutto. Questo secondo me non andrebbe dimenticato. Sì, ci sono tutta una serie di cose che non andrebbero dimenticate. Io le dirò, dopo aver visto la sentenza con un certo sbalordimento, dopo aver visto la sentenza, letto la sentenza di ieri sera, resto convinto invece che la mia prima idea fosse la più giusta, e cioè che le sanzioni che tutte queste squadre hanno avuto avrebbero dovuto essere molto più dure, e cioè che la sentenza giusta fosse la prima, quella che era uscita parlo di giustizia sportiva, in primo grado, perché quella somigliava molto alla sentenza che la giustizia penale adesso ha emanato dopo attento studio e dopo lunghe procedure. La seconda era assolutamente edulcorata. Che poi in quella tra tutte quelle società da condannare più pesantemente di quanto non siano state condannate, ce ne fosse magari anche un'altra emersa in tempi successivi, questo è indubbiamente un altro paio di maniche. Ma non mi sembra sinceramente la sua reazione la più consona a quello che ieri sera è avvenuto. Questo sempre tra noi. Paolo da Treviso, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica Paolo. Una domanda a considerazione: non è forse questo lo specchio della nostra società italiana di oggi? Quindi dirigenti e dirigenti, c'è un certo tipo di rilezione. L'altra cosa che vorrei dirle è: alcuni di questi sono addirittura in Consiglio federale, quindi magari anche la federazione dovrebbe pensarci. Ultimo, qualcuno, dalla Valle in specifico, ha avuto la faccia di andare in televisione e di scagliare pietre nei confronti di altri. Vorrei vedere che faccia in questo momento questo signore. Grazie. Grazie a lei. Insomma, ci sarebbe sempre bisogno di un po' più di attenzione nello scagliare la prima pietra, no? Perché in effetti bisognerebbe contare fino a tre e sapere esattamente se si è, non dico in diritto, ma insomma se si è nelle condizioni morali per scagliare queste pietre. Poi evidentemente lui così si sentiva. È anche vero che se torniamo, sia pure a fatica, perché la vicenda era talmente malodorante che non è una reimmersione piacevole. Però Marco, se io non ricordo male, diciamo che il coinvolgimento dei Della Valle, per esempio, visto che di loro si sta parlando, era stato poi leggibile come un eccesso di legittima difesa, se non ricordo male sempre. Sì, nel caso della Fiorentina e in quello della Lazio, le difese appunto hanno parlato di un tentativo da parte delle due dirigenze in qualche modo di tutelarsi rispetto al rischio di combin o di atti illeciti che invece temevano di subire. In ogni caso mi pare che appunto ci sia la frode sportiva come reato riconosciuto e quindi evidentemente il Tribunale ha individuato qualche elemento in più, ma ripeto, è fondamentale leggere le motivazioni, anche perché, rispondo in parte al primo ascoltatore, la difesa di Moggi in particolare ha portato tutta una serie di elementi nuovi nel processo, comprese le famose telefonate dell'Inter, evidentemente la Corte di Napoli, il Tribunale di Napoli non ha ritenuto rilevanti queste prove. Ciò non toglie che una volta che saranno rese note le motivazioni, la giustizia sportiva potrebbe magari trarre degli elementi, cioè non è detto che ciò che non sia rilevante a livello penale poi non lo potrà essere a livello di giustizia sportiva. Certo. Marco, io se ti chiedessi di dopo l'intervallo per i mercati, che credo sia proprio uno di quelli oggi da ascoltare con l'elmetto e con tante, davvero con tante cautele e sforzandoci di pensare ad altro magari, dopo mi piacerebbe, visto che sei in collegamento con noi, che parlassimo un pochino di diritti televisivi e di cose di questo genere. Possibile? Va bene, vi aspetto. Aggiudicato, allora ci risentiamo tra pochi minuti. Roberto ha chiamato da Vicenza, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Dica. Due questioni velocissime. Volevo due risposte da lei su cosa ne pensava del tentativo di smarcarsi da parte della dirigenza juventina nei confronti del signor Moggi. Volevo capire se agiva da solo a questo punto. E soprattutto da ieri sera nel paese dei buonisti, cioè l'Italia, cosa ne pensa nei giornali e TV che alla fine dicono ma sì, non è successo niente, alla fine niente di così particolarmente grave. Grazie. Grazie a lei Roberto, ma io credo che la risposta alla Juve tanto varrebbe sentirla direttamente da Moggi, che ha rilasciato un'intervista stamane a Sky, mi pare a Sky TG24, e quindi dopo l'intervallo la mandiamo in onda. Sul resto, beh, insomma, mi pare che in Italia stiano comunque accadendo cose leggermente più gravi, no? più gravi delle conseguenze, che poi ieri ci sia stata una concomitanza di situazioni e di, diciamo, di cadute o di precadute di personaggi, indubbiamente questo non può non aver colpito la fantasia popolare, ma uno dei due accadimenti è enormemente più grave dell'altro e non è quello calcistico. Torniamo in collegamento con Napoli e con Marco Bellinazzo, ma stavolta non più per il processo di Napoli, che tornerà tra poco, ma per i diritti televisivi, perché insomma, approfittiamo della tua presenza. Mi pare che dopo tanti litigi sia arrivato un accordo, ma è un accordo definitivo fino a un certo punto, che mi pare che Napoli e Roma non l'abbiano preso benissimo. Sì, la novità è questa appunto spaccatura nel fronte delle grandi squadre, delle big, che per tutta l'estate avevano fatto gruppo appunto per cercare di perdere il meno possibile dalla torta dei diritti TV legati, sì, ai bacini di utenza rispetto alle piccole squadre. Ora la nuova proprietà della Roma si è sfilata, anche il Napoli si è smarcata. È andata sull'Aventino cercando in qualche modo di tutelare i propri interessi. Questo accordo che riguarda il passato, che la stagione appena conclusa e quella in corso, è un passo avanti, ma come al solito succede in Italia nella Lega di Serie A, andando a leggere poi tra le righe ci sono invece tanti aspetti problematici, per esempio il fatto che ci sono 7 milioni e mezzo che dovranno andare alle squadre di Europa League, e le piccole squadre vorrebbero che fossero pagati questi soldi in proporzione a quanto si incassa, quindi dovrebbero pagare di più Juventus, Inter e Milan, che non hanno ovviamente la minima voglia di sborsare questi soldi, vorrebbero invece una ripartizione più equa, e su questo rischia di ulteriormente spaccarsi la Lega. In tema di bacini di utenza, ricorderai tutta la polemica sull'Auditel, come no, sul tifoso, sul sostenitore, si è trovato un accordo per cui le società scelte sono quelle in qualche modo selezionate dalle piccole società, ma è stata nominata un'ulteriore società che dovrà fare da supervisore nella analisi che le tre società indicate faranno a tutela delle Juventus, Milan e Inter, insomma un'ulteriore complicazione, quindi una doppia analisi individuare. Sono già così poco tutelate, no, queste tre povere piccole società che hanno bisogno certo, di una società che faccia da provare, consulente, trovare una tutela. Quindi come vedi sì, c'è stato un accordo ma con tante complicazioni, tanto è vero che il vero nodo, cioè come ripartire i soldi del prossimo triennio, è stato questo tema rimandato a una prossima riunione, con i tempi che corrono non sarà una decisione assunta in tempi brevi, purtroppo. Ma mi pareva un po' che non era finita sta storia, perché io ho letto che era arrivato l'accordo, ho detto sentiamo il nostro amico Pellinazzo, mi pareva un po' che non poteva essere così. Beh, in Italia si raggiungono sempre dei quasi accordi. Certo, peccato che poi ci sono gli spread. Purtroppo è così. Gigi, se posso ancora rubare un attimo, introduco poi temi che seguiranno forse oggi e nei prossimi giorni, sempre legate a Napoli. Quando parlavo di tinte fosche, no? Quello che getta, le ombre che getta questa sentenza anche sul futuro, lo facevo anche perché stamattina ho letto un'intervista del procuratore di Napoli, Gian Domenico Lepore, il quale appunto commentando questa decisione ha anche fatto capire che l'inchiesta attualmente in corso sul calcio scommesse a Napoli, su un giro di scommesse di alto livello, come dire, potrebbe avere ripercussioni importanti, e lui appunto ha detto che indagando ci siamo accorti che dal 2004 a oggi è cambiato poco, insomma una frase che si è fatto scappare il procuratore, che bella, come dire, qualche ulteriore nuvola sul calcio italiano se sembra profilarla, ecco. Ma noi sappiamo di poter contare su di te, e quindi da questo punto di vista nulla ci può cogliere alla sprovvista. Grazie Marco. Grazie a voi, a presto. Chiudiamo il collegamento con Napoli. A proposito di spread, scrive Davide, ce ne fosse uno che valuta il grado di credibilità del calcio italiano, sarebbe ben sopra i 573 punti. Ma proprio ben sopra non lo so, perché non so se lei ha presente la nostra classe politica in generale, governativa in particolare. Credo che ce la caviamo ancora meglio con il calcio, nonostante tutto, e a dispetto delle apparenze. Allora, prima di Matteo Da Lucca, mi avevo detto di questo commento che Luciano Moggi ha rilasciato, un lungo commento, ne abbiamo sintetizzato una parte traendola da questa intervista di Sky Sport 24. Credo che sia stata una sentenza già scritta, che non ha tenuto conto del dibattimento che è stato fatto per 3 anni. Siamo al primo round, poi dopo c'è l'appello. Io sicuramente non mi perdo di coraggio, vado avanti perché sono sicuro di non aver fatto niente. Mi auguro che la giustizia sia uguale per tutti, altrimenti dovremmo pensare solo alla giustizia divina. Ma io non ho letto il comunicato, so soltanto che non giocava Moggi contro il Chievo, Moggi contro l'Udinese, o Moggi giocava la Juventus, quindi non, e io ero un direttore generale della Juventus e le schede le comprava la Juventus, non le compravo io, che poi sono state anche mi sembra in gran parte eliminate, perché Angelo Fabiani ad esempio è stato assolto. Questa era una campana, ce n'è un'altra per esempio, che è quella rappresentata dall'ex PM di Napoli Giuseppe Narducci, che è quello che aveva istruito e seguito la prima parte dell'istruttoria sul grande processo sportivo. Nel frattempo ha cambiato mestiere, sono più che soddisfatto per come è andato a finire il processo, ha detto, è un risultato notevolissimo, la sentenza riconosce l'assoluta verità probatoria raggiunta dalla nostra attività investigativa e accoglie in pieno la nostra impostazione, stabilendo che quella che operò in quel periodo fu un'associazione per delinquere e che quello era un calcio malato e corrotto. C'è Matteo Da Lucca in linea, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo fare un commento sulla sentenza in questo senso, perché non vorrei che si distogliesse l'attenzione su un'altra cosa. Sono stati condannati società, dirigenti, non solo la Juve, la Roma, la Lazio, la Fiorentina, eccetera, eccetera. Però alla fine dell'ambaradan chiamato Calciopoli c'è invece una società che non è stata condannata, che si chiama Inter, perché c'è una relazione di Palazzi di giugno di recente che parla chiaro. Quindi ci sono società che hanno pagato, dirigenti che hanno pagato, però alla fine della fiera c'è una società che invece magari in misura minore rispetto ad altri, non voglio dire che doveva andare in serie B magari come la Juve, però c'è una società che anche a suo modo doveva pagare. E Matteo, non... però abbia pazienza. Secondo me è la vera, è il vero, poi concludo, secondo me questo è il vero problema e il vero, diciamo, tra virgolette scandalo, se si può chiamare scandalo, di Calciopoli. Non vorrei, ecco, che si distogliesse l'attenzione su questa cosa. Ma non c'è nulla da distogliere, c'è una sentenza che ha, esatto, che ha esaminato anche questo, perché la sentenza di ieri non è che non ha esaminato, cioè hanno passato gli ultimi tre anni gli avvocati difensori a cercare di coinvolgere altri. Io, guardi, le riprendo una parte di questa agenzia di Narducci, perché secondo me qua c'è discretamente la chiave di tutto. L'atteggiamento della difesa di Luciano Moggi non ha pagato, si è rivelato anzi inconsistente, ed è un atteggiamento di chi non ha atteso a dimostrare la propria innocenza o estraneità, ma piuttosto a dire che c'erano anche altri a fare quelle cose. Operazione buona solo dal punto di vista mediatico, mi sembra la chiave di lettura di questa sentenza. Evidentemente non solo il tribunale non ha ritenuto che queste nuove prove fossero tali, e cioè fossero tali da coinvolgere in condanne altri soggetti, ma evidentemente ha ritenuto fuorviante questo tipo di strategia difensiva. Questo mi pare discretamente evidente dalla sentenza. Marino ha chiamato da Forlì, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Sul contento mi avete richiamato perché avevo già tentato altre volte, ma non ho avuto la fortuna come oggi di essere ricontattato, e mi piace ancora di più visto che l'argomento in questione è molto toccante a livello sportivo. Mi dispiace di quel signore che ha appena chiamato, Matteo, che pur essendo io interista sono contento di cosa stia facendo attualmente il presidente della Juventus per cercare di verificare e in tutte le sedi se effettivamente la Juventus poi sostanzialmente, come dice il presidente, se ne vorrebbe, diciamo, tirare fuori, in quanto a detta sua non era poi l'assoluto responsabile dei fatti in questione. Capito, dalla premessa capito zero, anzi un pochino meno di zero. Proviamo ad andare avanti ancora 30 secondi, non di più, perché abbiamo gli aggiornamenti dalle strade. Ok, no, la cosa semplicemente era questa. E io penso che è effettivamente vero quello che prima lei aveva detto, ci sono questioni oggi che sono più pesanti che quelle della sentenza che è venuta fuori ieri. E penso anche però che se partendo dal mondo sportivo ogni mese di ogni anno, e così vale da 10 anni minimo a sta parte, si crea un 1% di danni nei confronti dello Stato, perché comunque lo sport è finanziato dallo Stato, e la teniamo sempre, diciamo così, in stand by, tanto è una cosa piccola, a lungo andare un 1% al mese arrivi a 10 anni che ti sei mangiato il 100%. Marino, vuol dire? Marino, sì può essere anche questo. Ogni tanto, barcollando letteralmente dopo certi interventi, ho capito che la cosa migliore è tenere da parte qualche mail di quelle che un po' il morale te lo tirano su. Per esempio Alberto Brignone ha scritto ieri, per la verità, dice: mi trovo a Città del Messico per lavoro, sono le 7.55 mentre scrivo, dopo alcuni giorni sempre per lavoro passato in California, sapesse che piacere svegliarsi alle 7 del mattino, fare doccia e barba ascoltando in roaming a tempo di sport. Beh, insomma, giusto, ripeto, per tirarsi un po' sul morale dall'ultimo intervento. Però ce n'è un'altra molto ma molto carina. Scrive Luciano Ferretti, dirigente della Unione Sportiva Folgore Bagno, squadra di un paesino di circa 3.000 abitanti della provincia di Reggio Emilia, che insomma riassume che cosa hanno fatto loro essendo stati promossi in promozione alla fine dello scorso campionato. Hanno invitato Sir Alex Ferguson a presenziare alla cerimonia di partenza della nuova stagione, e gli hanno mandato una lettera. Allora Luciano Ferretti scrive questa cosa dopo aver ascoltato ieri una ricostruzione delle cerimonie per Ferguson, e dice: aggiungo questo, Dopo due settimane è arrivata in sede, ripeto, all'Unione Sportiva Folgore Bagni, una lettera, carta intestata Manchester United, in cui Mr. Ferguson spiegava di non poter essere presente all'avvenimento, ma di insomma, mandare i suoi migliori saluti e auguri, lettera che da mesi abbiamo in mostra nella bacheca societaria e te credo, direi. Sentiamo Nicola Filippone il suo 9 novembre. Sembra ieri. 9 novembre 1947. La nazionale di Vittorio Pozzo rimedia una brutta sconfitta al Prater di Vienna contro l'Austria, che si impone per 5-1. Debutta in maglia azzurra, a 19 anni, uno dei più grandi talenti italiani del dopoguerra, lo juventino Giampiero Boniperti, che viene schierato in un attacco di primo livello con Piola, Valentino Mazzola, Biavati all'ultima partita con l'Italia e Carapellese, autore del gol della bandiera. In nazionale Boniperti disputerà nell'arco di 13 anni 38 gare, segnando 8 reti e ricoprendo diversi ruoli. Prenderà parte a due edizioni dei mondiali, quella del 1950 in Brasile e la successiva nel 1954 in Svizzera. Riproviamo con un ascoltatore da Treviso. Adriano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. L'intervento probabilmente è fuori tempo massimo, nel senso che avevo intenzione di fare una domanda al dottor Bellinazzo sul fair play finanziario. Volevo capire come mai l'Inter ultimamente, negli ultimi anni, deve fare attenzione a questo aspetto finanziario e quindi di bilancio, e pur avendo vinto e quindi incassato premi dall'UEFA come Champions League e così via, mentre altre squadre, pur avendo bilanci in passivo ugualmente o anche poco meno, dico Juve e Milan, ma anche altre squadre europee, possono tranquillamente avere delle possibilità di investimento. Lo sa che la settimana scorsa, non più tardi di 10 giorni fa, il presidente dell'Inter ha personalmente ricapitalizzato per altri, direi, 30 milioni di euro? Sì, bene, ma se ha ricapitalizzato, farlo, no? Fantastico, fantastico. Abbiamo capito tutto il fair play, molto ma molto bene. Comunque, per carità, giro a Marco Bellinazzo appena possibile. L'ha già spiegato un centinaio di migliaia di volte, grosso modo, però dato che è ripetita Juventus in questo caso, potremmo magari provarci ancora. Abbiamo sentito, ecco, questo frammento lo ascolterei volentieri perché potrebbe essere istruttivo. Gagliani, che parla del perché ha rinunciato al ricorso contro la squalifica di Boateng. Ho scritto a tutti i giocatori che da questo momento chiunque venga per proteste nei confronti degli arbitri, useremo il massimo rigore possibile e immaginare secondo i contratti e secondo il nuovo contratto collettivo. Quindi Boateng, che insomma la sostanza è Boateng, il Milan aveva già pronto da presentare ricorso contro la squalifica di Boateng per intemperanze verbali contro un assistente, poi invece hanno riguardato meglio il filmato, hanno riletto il labiale e hanno deciso di non presentarlo e anzi di multare Boateng e addirittura di cambiare regolamento interno. Alla luce di questo mi domando se il nuovo regolamento interno del Milan prevederà una multa salata per Ibrahimovic, che nel suo capolavoro letterario che sta uscendo in Italia per Rizzoli e che mi sembra dia veramente un ritratto di un grande personaggio di grande educazione, di grande spessore, di grande cultura, e quindi non solo di talento calcistico, racconta tra le altre cose una truffa aggravata che lo scorso anno ha fatto proprio in questa materia indossando già la maglia del Milan. E quindi, ripeto, per analogia e per coerenza direi, vediamo se il Milan interverrà anche in questo caso, sia pure retrodatato. Manuel ha chiamato da Ascoli Piceno, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Niente, io volevo semplicemente riprendere un attimino il discorso di cui non ho capito nulla, del Marino, dell'ascoltatore di prima, dell'1% al giorno, che dopo 10 anni avrebbe fatto il 100%. Io non ci ho capito granché. Beh, Manuel, cioè, avrebbe levato il medico ritorno, quindi io direi di lasciarlo, no? Cosa significa? Che oggi come oggi al calcio è concesso tutto perché porta nelle tasche dello Stato qualcosa? No, sai cosa significa? Significa, appunto, che questa è la mia domanda. La mia risposta è la seguente: se c'è un ascoltatore che dice una cosa di grande saggezza e di grande spessore, è difficile che arrivino raffiche di telefonate a seguire, ma non appena ne casca uno, che una volta si diceva la depone fuori dal vaso, o comunque che si esprime a soggetto e in maniera non perfettamente concludente, chissà perché quell'intervento è quello che suscita le maggiori tentazioni di commenti, reazioni, approfondimenti. Proviamo a ricominciare domani con una puntata probabilmente dedicata a, adesso vediamo esattamente, insomma, probabilmente dedicata alle due nuove realtà del calcio italiano, perlomeno sino ad oggi, che sono l'Udinese e la Lazio. E per il momento un grazie a Franco Piantanida, che ha curato il lavoro di redazione, e a Fabio Cantadori in regia. Buon pomeriggio a tutti.